credi che sia meglio evitare di concedere altre, pensi proprio di no. Tra tutte la realtà di combattere e cedere, più astuta non dico di no. Ma quando questa pioggia che bagna ti sembra possa fare di più, proprio lì ti accorgi che chiunque guadagna e vorresti proprio dire di no. Tutto a posto, qualcuno dice, ma addosso quell'odore sta anch'io. Le parole giuste si distillano in aria ed afferrarle è una sporca faccenda. E tu che ridi alla faccia di chi poco insegna, davanti a chi ancora si ingegna. Ci addormentiamo e ormai neanche più sogni fanno per chi vorrebbe dire di no. Scende la pioggia che bagna come piscio di cane senza redenzione. Sono